Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Ora si lavora, Obama alla prova dei fatti e tra i primi atti attesi la decisione sul futuro di Guantanamo. Per il federalismo fiscale i numeri dell'impatto economico non ci sono, ma la maggioranza va avanti, dice Tremonti. Il federalismo non c'è se non è fiscale, incalza Calderoli. Discussione accesa al Senato. Europa 7 senza frequenze, lo Stato deve pagare 1 milione di euro di risarcimento. Il Consiglio di Stato chiude il caso decennale. E i presidenti di Camera e Senato decisi a chiudere la commissione di vigilanza RAI. Ultime ore per Villari ormai solo. Nuovi sbarchi a Lampedusa e una vittima. Il centro d'accoglienza ormai è un centro di detenzione, accusa il sindaco dell'isola. Ora basta, non nuoto più, ecco l'ultima di Lor Manandù. Lascia la vasca per una pausa di riflessione. Non ci sarà il mondiale di nuoto a luglio a Roma. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizio. Buongiorno da Anna Migliorati. E naturalmente oggi primo giorno di lavoro per il presidente americano che ieri nella notte ha festeggiato il suo ingresso alla Casa Bianca. Ne parliamo tra poco, prima però in Italia. Sì, perché è uno dei passaggi politici veramente più attesi della legislatura. Parliamo del federalismo fiscale. Oggi è partita al Senato la discussione. Sui conti è difficile ora stabilire le cifre dell'impatto economico, ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, come abbiamo anticipato anche nei nostri titoli, ma si va avanti con molti punti all'ordine del giorno. Andiamo allora a Palazzo Madama da Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. Al via in aula al Senato le votazioni sul disegno di legge delega riguardo al federalismo fiscale. Il provvedimento dovrebbe essere licenziato domani. Questa mattina l'aula ha respinto la proposta del Partito Democratico di tornare in commissione perché il PD contesta proprio l'impatto economico sui conti pubblici e chiede quanto costerà il provvedimento. Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti promette che terrà conto anche dell'impatto della crisi, ma non è possibile ancora fare calcoli precisi. L'impegno politico è di cominciare a lavorare insieme sui dati per calcolare l'impatto dei decreti attuativi prima di fare i decreti attuativi e di fare quel calcolo insieme a tutte le forze politiche o tecniche interessate a questo esercizio. Grazie. In aula anche il ministro della semplificazione Roberto Calderoli, che promette la prossima settimana porteremo la carta delle autonomie in Consiglio dei Ministri, mentre ci sarà presto una proposta sul Senato federale. Poi chiarisce le linee guida di questo provvedimento. Sentiamo. Io credo, e l'ho già detto in commissione, che è vero che il federalismo o è fiscale o non è. Il PD non retrocede, per Anna Finocchiaro, dopo le parole di Tremonti, le preoccupazioni permangono. E per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E c'è anche il caso Rai ancora ad agitare le acque della politica. Via libera dalla giunta del regolamento del Senato e da quella della Camera allo scioglimento della commissione di vigilanza dopo le dimissioni, ricorderete, dei commissari sia di maggioranza sia d'opposizione. Attendo le motivazioni, ha commentato il presidente per ora ancora Riccardo Villari. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Allora che succede? Sì, buongiorno. Potremmo dire che Riccardo Villari è sempre più solo, con una mossa ormai prevista da tutti i commentatori. I presidenti di Senato e Camera, forti del parere delle giunte per il regolamento, hanno dato infatti il via libera all'iter che porterà alla revoca di tutti i membri dell'attuale commissione di vigilanza RAI. Su 40 membri, lo ricordiamo, 37 si sono già dimessi. Schifani e Fini spiegano in una nota che, tramontata la possibilità di una soluzione politica della vicenda Villari, al fine di garantire il funzionamento della commissione di vigilanza, utilizzeranno il potere loro riconosciuto dalle giunte, ossia il potere dei due presidenti di azzerare e quindi rinnovare di fatto tutta la commissione. Pronta la replica dello stesso Villari, sono sereno, ha detto aspetto le motivazioni e comunque ha spiegato l'attuale presidente della commissione di vigilanza RAI, le giunte non possono sciogliere una commissione. Villari, che non ha escluso la possibilità di un ricorso, ha comunque poco fa convocato la commissione per venerdì alle 13.30 per sue comunicazioni. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E intanto, dopo una lunga battaglia giudiziaria, è arrivata una sentenza sul Consiglio di Stato che chiude un'altra vicenda che va avanti però davvero non da qualche mese ma da molti anni. Parliamo del ricorso di Europa 7. Sentiamo. La pronuncia del Consiglio di Stato mette un punto alla vicenda di Europa 7, faccenda decennale che ha avuto come protagonista l'emittente di Francesco Di Stefano, a cui i giudici amministrativi hanno riconosciuto un risarcimento da 1 milione di euro. Europa 7 aveva vinto una gara nel 1999, cioè 10 anni fa, per la concessione di frequenze che non sono mai state assegnate. Da lì il lungo percorso giudiziario che ha coinvolto anche la Corte di Giustizia europea si è conclusa appunto oggi con una vittoria a metà. Il risarcimento chiesto dall'emittente era di 3 miliardi di euro. Paola Nania, GR24, Sole 24 Ore, Roma. E oggi si accavallano notizie che riguardano il mondo della televisione, perché Telecom ha detto non ha la vocazione di broadcaster, ma la 7 è uno strumento che intendiamo mantenere. Lo ha detto Franco Bernabè, che è amministratore delegato di Telecom Italia, intervento di questa mattina alla quarta conferenza nazionale sulla TV digitale terrestre. Nel Levante Ligure, situazione lentamente verso la normalità dopo le piogge di ieri che hanno provocato l'esondazione dei fiumi Magra e Vara, nello Spezzino e Entella a Chiari e Chiavari in provincia di Genova. I danni sono stimati in milioni di euro. Una valanga di rifiuti trascinati a valle nello Spezzino si è riversata sull'Arenile fra Ameglia e Sarzana. Maltempo invece questa mattina che sta colpendo in maniera veramente dura il Veneto. Un fiume ha rotto gli argini nel Padovano, allagando una quarantina di case in provincia di Udine. Un comune è isolato per una frana. E ora la questione che continua ad agitare le coscienze degli italiani. Ieri l'annuncio della Regione Piemonte: siamo disponibili ad accogliere Eluana Englaro per lasciarla morire. Per ora nessuna richiesta è arrivata. Però dalla famiglia, dice la presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, che conferma così la sua posizione, al microfono di Paola Cavadi. Ho letto, come tutti voi, le dichiarazioni sia del padre di Eluana che dell'avvocato e delle persone che si occupano per loro della vicenda. Da quanto ho capito, loro attendono la decisione del TAR della Lombardia e si riservano successivamente di valutare, se non riusciranno ad ottenerlo, di valutare la possibilità di chiederlo ad altre regioni. Ponderemo se verremo richiesti. Credo che prima di tutto esistano i doveri e quindi il rispetto della legge, e d'altra parte che le istituzioni abbiano anche le strutture sanitarie, in questo caso, abbiano anche il dovere di essere attenti agli aspetti umani di vicende di questo genere. Diversi esponenti del centrodestra hanno detto che c'è stata una gara tra i presidenti di diverse regioni per uccidere Eluana nella propria regione. Lei come risponde? E sembra veramente un modo assurdo di porre il problema. Intanto non c'è stata nessuna gara, c'è stata da parte di presidenti non solo di centrosinistra. Ricordo che il primo a esprimere una disponibilità è stato il presidente del Friuli, poi la struttura contattata ha rifiutato, ma il presidente ha mantenuto la propria posizione. Altri sbarchi questa mattina a Lampedusa, dove il centro di accoglienza è già al collasso, e tra i 53 migranti intercettati all'alba dai carabinieri sulla spiaggia di Cala Pisana c'è anche un morto durante la traversata. Ad attaccare duramente è il sindaco dell'isola, Bernardino De Rubeis. Sentite cosa dice al microfono di Paolo Piacenza. Stamattina c'è stato un gommone che ha raggiunto la spiaggia di Cala Pisana con 50 immigrati ed un morto all'interno del gommone. È qualcosa che effettivamente è preoccupante, anche perché all'interno del centro di prima accoglienza vi è la presenza ad oggi di 1.900 immigrati. Gente che ieri sera effettivamente le condizioni erano alquanto discutibili, tristi, non viene garantita la dignità dell'uomo, perché una struttura con un piano di sicurezza di 1.200 persone, quando ce n'è 1.900, nel periodo estivo dormono a cielo aperto e sono abituati a farlo, nel periodo invernale specialmente quando c'è la pioggia sono stati costretti ieri sera molti di loro ad inzupparsi d'acqua. viene difficile rimpatriare questa povera gente nei paesi di provenienza, e lo dimostra il fatto che ci sono stati soltanto 55 rimpatri dal periodo di Natale fino ad oggi. Questa gente deve partire immediatamente da Lampedusa verso i centri di permanenza in Italia. Questa nuova politica del governo Berlusconi di decidere che Lampedusa deve essere l'ultima spiaggia per questo popolo di disperati, e pertanto il centro di prima accoglienza ormai è diventato, e lo dobbiamo dire con grande tranquillità, un luogo di detenzione. Cioè questi immigrati è da 20 giorni, molti di loro, che sono fermi all'interno di questa struttura, ma senza che c'è un provvedimento da parte di un giudice, cioè sono in detenzione, li stanno trattando come bestie. Io ho invitato nuovamente Sua Santità il Papa affinché faccia sentire la sua voce, perché noi abbiamo bisogno di grandi umanesimi, e l'umanesimo non va soltanto predicato, ma va sperimentato e con i fatti. E intanto a verificare ci penserà però nelle prossime ore l'Europa, perché il commissario europeo alla giustizia Jacques Barrot si recherà a breve a Lampedusa, ha annunciato questa mattina, proprio per rendersi conto personalmente della situazione degli immigrati. Primo giorno di lavoro oggi per il presidente, neo presidente Barack Obama. Come detto, ne parleremo tra poco con un'ampia pagina. Prima però, sempre in America, per il Sundance Film Festival, appuntamento in corso fino al 25 gennaio, appuntamento che si rinnova. È la vetrina del cinema indipendente, ma il Sundance Film Festival mostra tutti i segni del successo e dei problemi che esso genera. So they would brought the paparazzi, many of which had nothing to do with us. Nothing to do with our mission. Era diventato un posto dove essere visti con paparazzi e gente alla moda che non avevano niente a che fare con noi, dice il suo mecenate Robert Redford. La crisi finanziaria si fa sentire soprattutto perché i grandi studios hanno eliminato o ridimensionato le loro divisioni dedite al cinema indipendente. I due film di più alto profilo dell'anno scorso, Choke e Hamlet 2, sono stati una delusione commerciale. E così si torna all'origine. Il crack globale è uno dei temi di punta di questa edizione, come i cambiamenti del mondo. Afghan Star di Havana Marking analizza i mutamenti della società afghana attraverso la passione per un programma televisivo, Afghan Star, appunto, l'X Factor locale. La musica tradizionale tibetana come elemento di resistenza invece è il filo conduttore di Tibetan Song, ma si parla anche della rivolta in Birmania, dei campi di prigionia in Nord Corea, della storia di Sergio Vieira de Mello, il diplomatico dell'ONU morto in un attentato a Baghdad, e di Farah Diba, ex imperatrice dell'Iran. C'è anche un documentario italiano, 211 Anna, di Paolo Serbandini e Giovanna Massimetti, incentrato sulla storia della giornalista russa Anna Politkovskaya. Ma perché ti porti sempre appresso sta borsa? Perché dentro c'ho delle cose che si possono rompere. Tra i film di finzione un altro italiano, quello di Stefano Tummolini, già a Venezia, passato alle cronache per essere costato solo 1000 euro. Ma ci sono anche pellicole con Pierce Brosnan, Susan Sarandon, Paul Giamatti, Richard Gere, Jim Carrey, Ashton Kutcher e Uma Thurman. Il richiamo del Sundance, nonostante tutto, resta fortissimo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 17 minuti, le notizie di oggi extra large. Per Obama comincia la prima giornata di lavoro sul tavolo. La prima promessa era la chiusura di Guantanamo. Il neo presidente ha chiesto ai giudici militari di congelare per 120 giorni i casi pendenti. Nella notte italiana le 10 feste di tradizione per celebrare l'investitura ufficiale, ballo romantico con la moglie. Lei, ha detto Obama, è quella che fa quel che faccio io, solo che lo fa sui tacchi. Dance with somebody who's been doing the same thing that I've been doing all this time, except she does it in heels. The First Lady of the United States. Federalismo fiscale, il dibattito in aula al Senato. È difficile ora stabilire le cifre dell'impatto economico che avrà. Sono state le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Ieri Veltroni aveva detto che il PD potrebbe votare il federalismo, ponendo tra le condizioni che il governo appunto ne quantifichi però i costi. Così Tremonti. L'impegno politico è di cominciare a lavorare insieme sui dati per calcolare l'impatto dei decreti attuativi prima di fare i decreti attuativi e di fare quel calcolo insieme a tutte le forze politiche o tecniche interessate a questo esercizio. Grazie. Si va verso lo scioglimento della Commissione di Vigilanza RAI questa mattina, il via libera della Giunta di Regolamento del Senato e della Camera, e i presidenti Schifani e Fini hanno annunciato che procederanno ai conseguenti adempimenti tempestivamente. 1 milione di risarcimento per Europa 7. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito in questa cifra quanto l'emittente di Francesco Di Stefano debba ottenere dallo Stato. Arriva così la parola fine ad una vicenda decennale originata dal fatto che l'emittente aveva ottenuto la concessione per trasmettere ma non le frequenze. L'esercito israeliano ha completato il ritiro dalla striscia di Gaza. Tutti i carri armati hanno lasciato la zona. Intanto, riferisce il quotidiano Haaretz, lo stesso esercito israeliano sta indagando sull'eventuale uso di bombe al fosforo bianco, vietate alle convenzioni internazionali. Sul fronte diplomatico continua la visita in Medio Oriente del ministro degli esteri Franco Frattini, che oggi ha incontrato a Sharm el Sheikh il presidente egiziano. Sentiamo Frattini. Abbiamo confermato il pieno sostegno dell'Italia al piano egiziano, che passa certamente per interventi di sicurezza, ma anche per un'iniziativa per la ricostruzione, un'iniziativa a medio termine, su cui l'Egitto sta riflettendo proprio per organizzarla in tempi brevi, nelle prossime settimane. A Palermo è decapitato il vertice del mandamento mafioso di Partinico e Borgetto, 16 arresti tra le famiglie rivali in guerra da anni per il predominio sul racket e gli appalti nella zona, svelati anche i contatti con la mafia newyorkese. Migliora la situazione del maltempo in Liguria dopo le esondazioni di ieri, va male invece in Veneto. Un fiume ha rotto gli argini nel Padovano, allagando una quarantina di case e isolato un comune in provincia di Udine per una frana. È stato uno shock nel mondo del nuoto francese. Lormand Andoux ha annunciato di volersi prendere una pausa di riflessione nella sua carriera e non parteciperà nel 2009 ad alcuna competizione. La 22enne ex primatista del mondo non ci sarà dunque ai mondiali di nuoto in programma a luglio a Roma. C'è chi come Crancic sul giornale vede Obama che regge la sfera, che la terra, insomma, con l'aria affaticata, e così la vede la satira sul giornale. C'è chi invece come LK su Repubblica pensa anche a Bush, il dialogo Obama, il simbolo dell'America che cambia. Anche l'aereo con Bush che scompare all'orizzonte, però non è male. E comunque la vogliate vedere oggi, anzi davvero queste sono le primissime ore di lavoro per il presidente americano Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti. Un primo ordine lo ha già dato, ha chiesto ai pubblici accusatori del tribunale di Guantanamo per i crimini di guerra di congelare per 120 giorni i casi pendenti. A Guantanamo si stanno preparando tra l'altro il processo contro 5 presunti responsabili dell'11 settembre che rischiano tutti la pena di morte, e quindi già questa è una decisione davvero delicata. Sulla chiusura di Guantanamo ricordiamo, era stata proprio la prima promessa di Obama una volta arrivato alla Casa Bianca. Allora ripercorriamo la scaletta, l'agenda, diciamo così, degli appuntamenti di oggi del neo presidente. Prima mossa, azionare i freni. Obama ha ordinato che tutte le riforme regolamentari avviate negli ultimi tempi della presidenza Bush siano fermate per un riesame. Non sarà facile, poiché le leggi della mezzanotte del suo predecessore, come vengono dette negli Stati Uniti, sono già in fase avanzata, ma Obama ci vuol provare. Se si arrendesse senza combattere a una normativa ambientale che consente trivellazioni petrolifere nelle vicinanze dei parchi nazionali, ad esempio, sarebbe un tradimento dei principi che ha professato e di tutti i suoi elettori. Saldo nell'intenzione di chiudere la prigione di Guantanamo, Obama ha intanto chiesto la sospensione per 4 mesi di tutti i processi militari in corso, nell'interesse della giustizia, si legge nel documento diffuso dal segretario alla difesa Robert Gates. C'è poi un altro stop che potrebbe essere subito imposto, alla cosiddetta Mexico City Policy. La norma introdotta da Reagan nel 1984 che proibisce il finanziamento statale a organizzazioni che promuovano o facilitino l'aborto al di fuori dei casi previsti dalla legge federale, tra cui lo stupro. Clinton, appena entrato in carica, rimosse questo divieto, ma Bush lo reintrodusse nel 2001. Domani, 36esimo anniversario della legalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti, Obama potrebbe rispedire la Mexico Policy nel dimenticatoio. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E tra le questioni più calde sicuramente sul tavolo di Barack Obama c'è la situazione economica. Allora riascoltiamo il commento di Ferruccio De Bortoli, l'asterisco che vi ricordiamo va in onda su Radio 24 ogni mattina alle 8.35. L'unica a non aver festeggiato l'elezione di Barack Obama è stata Wall Street, che ieri ha perso il 5,3%. Alcuni titoli bancari hanno registrato pesanti cadute come State Street, considerata fino a qualche giorno fa sicura, che ha lasciato sul terreno il 60%. Bank of America e Citigroup tra il 20 e il 30%. L'ingresso dello Stato negli istituti di credito sembra non essere più una garanzia per gli investitori che si tengono alla larga dalla finanza. Più di 800 miliardi di dollari complessivi di interventi, anche se disordinati, appaiono persino inefficaci. Obama non baderà a spese, non guarderà al deficit, che ormai è superiore all'8% del prodotto lordo, altro che Maastricht, e nemmeno al debito pubblico, che potrebbe raddoppiare avvicinandosi addirittura a livelli italiani. La differenza con gli altri paesi è che una grande potenza può permetterselo, anzi deve permetterselo. Gli americani da anni vivono al di sopra delle proprie possibilità e noi dobbiamo sperare che continuino a farlo, e anche tanto. Questo dunque Ferruccio De Bortoli, e salutiamo Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora Giulia, i giornali italiani inondati naturalmente con 10-12 pagine sulla cerimonia, sull'insediamento. Però non siamo gli unici. Però naturalmente non siamo gli unici, raccontaci un po' qualche cosa. Ma io sì, ho cercato magari le cose un po' più particolari. C'è Women's Wear Daily, per esempio, che è forse l'unico quotidiano veramente autonomo della moda e del lusso al mondo, che naturalmente parla del vestito di Michelle. Michelle, come sappiamo, si è vestita di giallo per tutta la fase preparatoria e poi il giuramento, poi però al grande ballo aveva un vestito di Jason Wu, che è un giovane stilista americano di origini asiatiche che ha solo 26 anni, e naturalmente anche in questo c'è un segnale, e l'idea è che anche nel guardaroba Michelle sarà quel simbolo di cambiamento rispetto alle sue predecessore, cioè Laura Bush così tradizionale, Hillary Clinton altrettanto, e insomma è andata un po' così, un po' fuori dalle righe in qualche modo. Però ascolta, invece sul discorso di Obama i commenti quali sono? Ma ce ne sono, ce n'è la Süddeutsche Zeitung, per esempio, il giornale tedesco, punta molto su questo aspetto composto che aveva Obama nel suo discorso, e tanto visto che anche i giornali italiani ne parlano, è una cosa che è saltata all'occhio, e loro fanno il confronto con tanti oratori del passato. In Germania purtroppo ricordiamo tutti le grandissime adunate prima della Seconda Guerra Mondiale, e sappiamo anche quanto era importante la mimica in quel caso, oltre alla retorica incredibile, ai paroloni. In questo caso Obama ha fatto un discorso estremamente retorico nel senso migliore del termine, parlando di tutti gli ideali possibili e immaginabili di Dio, della famiglia, e però aveva questo contrasto con una grandissima compostezza e pochissimi sorrisi, quindi una grande austerità, e forse anche questo è uno dei tanti segnali che o lui ha voluto dare o qualcuno gli ha suggerito di dare per far capire che sì, d'accordo, l'inaugurazione è tutto bello, un sogno, però adesso let's get si lavora. Gli americani come l'hanno visto? Ma è interessante l'articolo di USA Today, per esempio, che ha mandato un inviato in Afghanistan. Obama l'ha sempre detto, abbiamo due guerre in corso, una in Iraq e una in Afghanistan, e le truppe lì aspettano, forse esattamente come i prigionieri di Guantanamo, di capire quali saranno le decisioni immediate di Obama. Non ha mai detto di volersi ritirare dall'Afghanistan, anche perché in un certo senso è ancora più cruciale la presenza lì per la lotta al terrorismo e magari la famosa cattura di Osama. E però, nonostante tutto, come su molte altre questioni, bisognava aspettare che lui entrasse veramente in pieni poteri per vedere che cosa farà sull'Afghanistan. Grazie, ma ieri a Washington e anche stanotte, come ricordava proprio anche Giulia Crivelli, è stato il giorno dei festeggiamenti. Ladies and gentlemen, the President of the United States, the First Lady Michelle Obama. Non bastava la maratona elettorale, l'investitura ufficiale. A Obama è toccata pure la prova come ballerino. Quando in Italia era già notte fonda, ieri a Washington, dopo il giuramento e la parata, sono scattate le danze. Non una festa, bensì 10. E in ossequio a una tradizione stabilita da un crudele Henry Truman nel 49, ad ogni festa ci si aspetta che il presidente balli almeno qualche minuto. E quindi stoici, Obama e Michelle, messe a letto le bambine, lei in un lungo abito bianco firmato da uno stilista di origine taiwanese, lui in nero con cravattino bianco, sono rimbalzati da un capo all'altro della città per partecipare ai 10 balli. Obama probabilmente si muove meglio sul terreno della pallacanestro, visto che alla prima apparizione, al ballo dei vicini, ha inciampato nell'abito della First Lady. Infine, quando in Italia erano ormai passate le 7 del mattino, il neopresidente e signora, si immagina stremati, sono andati finalmente a dormire. La prova ballo è superata. Ora se la dovrà vedere solo, si fa per dire, con la crisi finanziaria internazionale. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 33 minuti in questo istante, le notizie di oggi, extra large. La prima giornata di lavoro è sul tavolo, la prima promessa, chiudere Guantanamo. Così il neopresidente Barack Obama ha chiesto ai giudici militari di congelare per 120 giorni i casi pendenti. Federalismo fiscale, il dibattito in aula al Senato. È difficile ora stabilire le cifre dell'impatto economico che avrà. Sono state le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Non intensificherà la crisi, ha ribadito comunque. Ieri Veltroni aveva detto che il PD potrebbe votare il federalismo, ponendo tra le condizioni però che il governo appunto ne quantifichi i costi, così Tremonti. L'impegno politico è di cominciare a lavorare insieme sui dati per calcolare l'impatto dei decreti attuativi prima di fare i decreti attuativi e di fare quel calcolo insieme a tutte le forze politiche o tecniche interessate a questo esercizio. Grazie. Si va verso lo scioglimento della commissione di vigilanza RAI. Questa mattina il via libera della giunta del regolamento del Senato e da quella della Camera. E i presidenti Schifani e Fini hanno annunciato che procederanno ai conseguenti adempimenti tempestivamente. Attendo le motivazioni della decisione, ha replicato Villari. €1 milione di risarcimento per Europa 7, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito in questa cifra quanto l'emittente di Francesco Di Stefano debba ottenere dallo Stato. Arriva così la parola fine alla vicenda decennale, originata dal fatto che l'emittente aveva ottenuto la concessione per trasmettere, ma non le frequenze. L'esercito israeliano ha completato il ritiro dalla striscia di Gaza. Tutti i carri armati hanno lasciato la zona. Intanto, riferisce il quotidiano Haaretz, lo stesso esercito israeliano sta indagando sull'eventuale uso di bombe al fosforo bianco vietate dalle convenzioni internazionali. Sul fronte diplomatico continua la visita in Medio Oriente del ministro degli esteri Franco Frattini, che oggi ha incontrato a Sharm el-Sheikh il presidente egiziano. Nuovo sbarco di immigrati clandestini a Lampedusa. Sono già oltre 1.900 nel centro di accoglienza e c'è una vittima, un uomo morto durante la traversata. Durissimo il sindaco dell'isola, Bernardino De Rubeis. Stamattina c'è stato un gommone che ha raggiunto la spiaggia di Calapisana con 50 immigrati ed un morto all'interno del gommone. È qualcosa che effettivamente è preoccupante, anche perché all'interno del centro di prima accoglienza vi è la presenza ad oggi di 1.900 immigrati. Gente che ieri sera effettivamente le condizioni erano alquanto discutibili, sono stati costretti molti di loro ad inzupparsi d'acqua. Napoli, sotto inchiesta anche il maxi hotel Di Romeo, inaugurato pochi giorni prima del suo arresto. Oggi in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere la sfiducia del sindaco Iervolino. È stato uno shock nel mondo del nuoto francese. L'Ormanandou ha annunciato di volersi prendere una pausa di riflessione nella sua carriera. Non parteciperà nel 2009 ad alcuna competizione. E così la 22enne ex primatista del mondo non ci sarà ai mondiali di nuoto a luglio a Roma. E dunque l'esercito israeliano ha completato il ritiro dalla striscia di Gaza, lo ha riferito un portavoce militare. I combattimenti nella striscia, iniziati il 27 dicembre scorso, erano terminati domenica scorsa con la dichiarazione unilaterale della tregua da parte di Israele e poi anche da parte dei gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas. I contatti diplomatici però non si fermano. Oggi c'è stato un colloquio tra il ministro degli esteri italiano Franco Frattini e il presidente egiziano Hosni Mubarak a Sharm el-Sheikh, nel terzo giorno della visita del titolare della Farnesina in Medio Oriente. Ieri lunedì Frattini, ve l'abbiamo raccontato, era stato in Israele e poi nei territori palestinesi, dove aveva incontrato le autorità israeliane e palestinesi. Al seguito della missione italiana c'è Carlo Marroni. Buongiorno ancora Carlo. Buongiorno a voi. Oggi la novità qual è stata? La novità che ha annunciato il ministro degli esteri Frattini è che questa mattina a Sharm el-Sheikh, ora ci troviamo al Cairo, il presidente della Repubblica Egiziana Mubarak ha annunciato a Frattini l'intenzione da parte dell'Egitto di convocare una conferenza internazionale per la ricostruzione e la riconciliazione della Palestina di Gaza. Questa conferenza dovrebbe tenersi, secondo gli auspici, entro febbraio. Gli attori dovrebbero essere, oltre ai paesi arabi e l'Egitto in testa, l'ONU, la Banca Mondiale, l'Italia come presidenza del G8 e probabilmente anche altri soggetti, verosimilmente anche gli Stati Uniti e la Russia, ma ancora questo non è stabilito. Il ministro degli esteri Frattini evidentemente raccoglie in questo un risultato politico per l'Italia di essere la prima come interlocutore, ma sentiamo il ministro degli esteri. È un incontro certamente molto utile ed importante col presidente Mubarak. Abbiamo confermato il pieno sostegno dell'Italia al piano egiziano, che passa certamente per interventi di sicurezza, ma anche per un'iniziativa per la ricostruzione, un'iniziativa a medio termine, su cui l'Egitto sta riflettendo proprio per organizzarla in tempi brevi, nelle prossime settimane, con l'Unione Europea, con la Banca Mondiale, con le Nazioni Unite e con l'Italia in quanto presidente del G8. Naturalmente l'Italia conferma la disponibilità ad inviare ai confini di Gaza tra Israele, soprattutto tra Gaza ed Egitto, carabinieri al controllo dei valichi e questa sarà una cosa molto complicata ancora stabilire per modalità, per sapere come la pace sarà fatta, come la tregua si reggerà e anche per inviare un pattugliamento marittimo a largo delle acque internazionali di Gaza. Ma sentiamo sempre il ministro degli esteri. Noi abbiamo detto con chiarezza al presidente Mubarak che non pensiamo minimamente ad una forza comprendente ad esempio i nostri carabinieri in territorio egiziano. Pensiamo invece che qualora l'autorità palestinese riprendesse il controllo della frontiera e ai valichi, in quel caso l'attuale missione europea che si chiama EUBAM potrebbe essere rivitalizzata e lì certamente i nostri carabinieri potrebbero partecipare. E grazie allora a Carlo Marroni, naturalmente la missione continua, ci risentiremo anche più avanti. Ritiro ultimato da Gaza da parte dell'esercito israeliano, dicevamo, la tregua dunque sembra reggere, ma l'Iran starebbe già cercando di riarmare Hamas, sentiamo. Navi da guerra statunitensi stanno cercando nel Golfo di Aden un mercantile iraniano con un carico di 60 tonnellate di armi, tra le quali missili con una gettata di 75 chilometri, destinata a Hamas. Ne dà notizia il sito di intelligence israeliano Debka, secondo cui la nave partita dal porto di Bandar Abbas avrebbe cambiato nome e bandiera. Il comandante avrebbe l'ordine di scaricare le armi in un sito sulle coste del Sinai in Egitto, per consegnarlo a beduini del deserto che dovrebbero poi trasportarlo gradualmente e clandestinamente nella striscia di Gaza. Venerdì scorso il ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni era volato a Bruxelles per chiedere all'Unione Europea di sottoscrivere un'intesa appena raggiunta con gli USA, intesa che garantisce l'impegno USA di impedire il contrabbando di armi verso Gaza. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E nella striscia di Gaza, intanto ieri, e fa parte anche questo dell'intervento italiano, sono arrivati i primi aiuti. Nella notte sono arrivati in Italia 10 bambini palestinesi malati che saranno accolti e curati in alcuni ospedali toscani, tra cui il Meyer di Firenze. Al microfono allora di Cristina Balotelli, il generale Pier Valerio Manfroni, il responsabile sanitario del centro operativo Interforze che li ha accolti proprio questa notte all'aeroporto militare di Pisa. La scelta è stata fatta per bambini che hanno patologie estremamente complesse, quindi dobbiamo pensare congenite o acquisite, quindi malattie croniche non derivanti dagli ultimi eventi che si sono verificati in quell'area. Sono bambini con gravi malformazioni a livello cardiaco o ad altri organi o anche con patologie neoplastiche che immagino impegnassero moltissimo i sanitari locali e che quindi sottratti al loro interesse diretto consentono loro di potersi dedicare con molto maggior impegno ai bambini feriti, che però magari richiedono un impegno relativo, una frattura, una ferita, riescono a trattarla molto meglio di un bambino oncologico e di uno con una grave malformazione che richiedono un impegno di equip complete. Quindi tutto pronto adesso per accogliere questi bambini? Questi bambini, sì, l'attività è stata sempre coordinata, anche questo tramite il Ministero degli Affari Esteri, e saranno distribuiti in vari ospedali della regione toscana. In primo luogo l'ospedale Meyer di Firenze, ospedale pediatrico di Firenze, che ne accoglierà la gran parte. E adesso un aggiornamento che riguarda sempre la crisi a Gaza. Anna. Sì, arriva da Bruxelles, perché il ministro degli esteri israeliano è intanto in queste ore a Bruxelles e l'Unione Europea si attende da Israele la riapertura di Gaza e più sforzi per dare stabilità a un cessato il fuoco che è ancora fragile. Sono state proprio un istante fa queste le parole dell'altro rappresentante della politica estera di sicurezza dell'Unione Europea, Javier Solana. Adesso invece una curiosità che riguarda l'Iraq, o meglio l'ex regime di Saddam Hussein, perché il governo iracheno ha deciso di riportare a casa lo yacht presidenziale appartenuto al deposto e poi defunto presidente Saddam Hussein. Attualmente era ormeggiato in Grecia, presto poserà le sue ancore nel porto di Bassora. Il governo non è riuscito a venderlo all'asta perché insomma vale un sacco di soldi, però non c'è riuscito a causa della crisi finanziaria mondiale. È uno yacht, pensate, lungo 82 metri. Se ne erano perse se le tracce. Se qualcuno lo volesse. Poi è apparso in Costa Azzurra. Insomma, se qualcuno è interessato, chissà qual è il prezzo. Niente gare nel 2009. Laure Manandou, la nuotatrice francese così amata dal gossip, ora si prende una pausa. Mon objectif c'est pas de battre les italiennes, mais d'arriver première. Bei tempi quando Laure Manandou lanciava stilettate la concorrenza, unghiate da far male, occhi arrossati, e non solo per il cloro. La francese era prima in tutto, in vasca, tre medaglie olimpiche, sei mondiali, e in pettegolezzi, con la sua sfavillante storia da copertina con Luca Marin. Poi le cose cominciano ad andare male, Federica Pellegrini, la sua antica rivale, le sfila via tutto, prima il fidanzato e poi i risultati. Da allora per la star francese comincia la picchiata verso il fondo, il ritorno in Francia, le sconfitte di Pechino, il gossip velenoso della stampa e un calvario non solo sentimentale, mal di testa, mal di schiena, la spalla che cigola, la fatica della routine. Ore e ore in acqua, i rumori soffusi, la solitudine dell'allenamento e un altro fidanzato che non va. E soprattutto quella domanda, perché non sei più la prima? Così, per cambiare corsia la sua vita, la Manandou ha deciso di mollare, almeno per un anno. Ha raggiunto uno stato di saturazione che la priva del piacere e della voglia di nuotare, ha spiegato il suo avvocato. Già, la voglia di nuotare non c'è più. Se l'avesse ancora, sarebbe davvero d'acciaio. Invece, è solo una ragazza di 23 anni. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46 minuti, le notizie di oggi. La prima giornata di lavoro e sul tavolo la prima promessa, la chiusura di Guantanamo. Così il neo presidente americano Barack Obama ha chiesto ai giudici militari di congelare per 120 giorni i casi pendenti. Federalismo fiscale, il dibattito in aula al Senato. È difficile ora stabilire le cifre dell'impatto economico che avrà, sono state le parole del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Ieri Veltroni aveva detto che il PD potrebbe votarlo, ponendo però tra le condizioni che il governo appunto ne quantifichi i costi. Si va verso lo scioglimento della commissione di vigilanza Rai. Questa mattina via libera delle giunte del regolamento di Camera e Senato. I presidenti Schifani e Fini hanno annunciato adempimenti tempestivi. Attendo le motivazioni, la replica di Villari. Un milione di risarcimento per Europa 7, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito in questa cifra quanto l'emittente di Francesco Di Stefano debba ottenere dallo Stato. Arriva la parola fine alla vicenda decennale originata dal fatto che l'emittente aveva ottenuto la concessione per trasmettere ma non le frequenze. L'esercito israeliano ha completato il ritiro dalla striscia di Gaza, tutti i carri armati hanno lasciato la zona. Sul fronte diplomatico continua la visita in Medio Oriente del ministro degli esteri Franco Frattini, che oggi ha incontrato a Sharm el Sheikh il presidente egiziano. Nuovo sbarco di immigrati clandestini a Lampedusa, già oltre 1900. Nel centro di accoglienza c'è una vittima, un uomo morto durante la traversata. Il centro di accoglienza ormai è un centro di detenzione, dice il sindaco. Migliora la situazione del maltempo in Liguria dopo le esondazioni di ieri. Va male invece in Veneto, un fiume ha rotto gli argini nel Padovano, allagando una quarantina di case, isolato un comune in provincia di Udine per una frana. Sotto inchiesta anche il maxi hotel di Romeo a Napoli, inaugurato pochi giorni prima dell'arresto. Oggi in Consiglio Comunale un ordine del giorno per chiedere la sfiducia al sindaco Iervolino. Presunti abusi edilizi nei lavori di ristrutturazione fatti eseguire dall'immobiliarista Alfredo Romeo nell'ex Palazzo Lauro in via Cristoforo Colombo a Napoli, diventato da alcune settimane un grand hotel. Si apre così un nuovo capitolo sull'imprenditore al centro della bufera alla Procura di Napoli. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, sono in corso accertamenti per verificare la regolarità delle opere. L'inaugurazione del grand hotel Romeo avvenne pochi giorni prima dell'esecuzione delle misure cautelare, lo ricordiamo, nei confronti dell'imprenditore e anche di tutti gli altri indagati. Intanto già arriva un ordine del giorno per chiedere la sfiducia della nuova giunta del sindaco Iervolino. È l'atto formale che l'opposizione di centrodestra attuerà oggi in una nuova seduta di consiglio comunale a Napoli per contestare la decisione della Iervolino di non riassegnare le dimissioni dopo le note vicende giudiziarie. Insomma, la bufera è davvero tutt'altro che archiviata. E Raffaella Calandra ne ha parlato con uno dei nuovi assessori, Diego Guida, di storica famiglia napoletana, che ha preso la poltrona al decoro urbano. Abbiamo visto la foto con la benedizione del suo ufficio. Visti i precedenti, lei è voluto partire bene. Sono anche tra i nuovi un fortunato, perché io recupero stanze che non portano delle tare imbarazzanti per chi segue. Io sono un credente e ritenevo opportuno fare questa benedizione dei locali, della penna con la quale io dovrò firmare i primi provvedimenti. Un po' di paura o un po' di scaramanzia? Entrambe. Come definirebbe lo stato della città? Certamente non è buono. Io non le nascondo che ho avuto un po' di imbarazzo quando ho avuto il privilegio di essere stato chiamato appunto dal sindaco, perché da cittadino mi sentivo molto scoraggiato, abbandonato. Si debbano raccogliere dei risultati al più presto. Noi abbiamo assistito nei primi anni 90 a quello che era stato considerato il rinascimento napoletano. Sì. In realtà era gran parte dovuto alla fiducia, all'aspettativa, alla speranza della città che qualcosa potesse cambiare. E non è stata tradita questa città? Probabilmente sì, è stata anche tradita, però non tutto è perduto, aggiungerei. Se le aspettava le contestazioni? Certamente sì, è ancora più importante che si dimostri che ci siano dei segnali di rinnovamento reale. Questi segnali però, secondo i contestatori, sarebbero dovuti essere le dimissioni di chi è ai vertici del comune e della regione. C'è del tempo ancora davanti e continuare a piangersi addosso o scagliarsi contro senza poi poter realizzare nulla se non un'opposizione che magari, ahimè, resta comunque fuori dalla porta, non ha senso. E adesso andiamo a Roma per una maxi operazione contro la camorra. Decine gli arresti. 41 arresti, altre 30 persone indagate a piede libero e sottoposte a perquisizione in 6 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. L'operazione Orchidea dei ROS dei Carabinieri, su mandato della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato una struttura camorristica radicata nella capitale, dedita, secondo le ricostruzioni, al traffico internazionale di stupefacenti, ma anche al controllo delle aste pubbliche presso il Banco dei Pegni Capitolino, alla ricettazione di preziosi, all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, alla compravendita di autovetture. L'accusa, per il gruppo al cui vertice viene indicato Michele Senese, è di narcotraffico internazionale, riciclaggio, ricettazione e violazione del mercato sulle armi. Gli uomini di Senese si sarebbero riforniti di ingenti quantitativi di cocaina e hashish in Spagna e Olanda per poi commercializzare la droga soprattutto sui mercati romano e napoletano. I militari hanno anche ricostruito i collegamenti del gruppo con storici esponenti della criminalità romana come Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana, con la camorra napoletana, con la criminalità barese e con alcuni componenti di Cosa Nostra siciliana radicate nella capitale. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Se questo non è amore, io non lo so cos'è. So che mi manca il cuore quando mi manchi tu. E auguri a Gino Paoli, che festeggia i 50 anni di carriera. Questa sera presenterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma le canzoni del nuovo album Storie, un'uscita dopodomani. Da 6 anni Paoli non pubblicava un album con degli inediti e quello che state sentendo, Il Nome, è il singolo che anticipa il nuovo LP. Quando mi guardi senza parlare, forse ne trovo una che non dirò, così non si consuma Questo Gino Paoli, dunque. Adesso invece veniamo a Milano per un appuntamento che riguarda i 100 anni del Corrierino dei Piccoli, una mostra alla Rotonda della Besana. Più di 100 anni dall'uscita del primo numero del Corriere dei Piccoli, sbarcato in edicola il 27 dicembre del 1908, la Fondazione Corriere della Sera, dopo la Domenica del Corriere, celebra ora l'anniversario del fortunato giornalino per ragazzi, mettendo a disposizione il suo imponente archivio storico per realizzare una mostra. Allestita alla Rotonda della Besana di Milano e intitolata Corriere dei Piccoli, storie, fumetto e illustrazione per ragazzi, è in programma fino al 17 maggio prossimo. L'ha curata la storica dell'arte Giovanna Ginex. Il linguaggio del fumetto è un linguaggio d'arte di comunicazione visiva attualissimo che in Italia è poco valorizzato. Invece questa mostra vuole anche fare questo, far comprendere l'importanza del fumetto e dell'illustrazione d'autore. Il fumetto è una delle forme d'arte più vive oggi. Più di 300 opere tra tavole, disegni, bozzetti e vignette di grande qualità grafica per raccontare la storia del Corrierino, come molti amavano chiamarlo. Un settimanale unico nel suo genere, sul quale hanno scritto anche grandi firme della letteratura. Ma sono state soprattutto le illustrazioni di grande qualità a sottolineare l'originalità della testata, realizzate da giovani artisti, tra cui il bravissimo attore e disegnatore Sergio Tofano, che nel 1917 inventò il celeberrimo Signor Bonaventura. L'elenco degli artisti da citare sarebbe lunghissimo, da Bozzetto a Pratt, da Iacovitti a Manara, ad Altan, soltanto per citarne alcuni. Il Corriere dei Piccoli è stato chiuso per sempre nel 1995, ma per un secolo è stato il periodico per ragazzi più amato per almeno 4 generazioni di lettori. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Tu che sei cane da fiuto, dammi aiuto. E il riepilogo delle notizie di oggi. Adesso si lavora Obama alla prova dei fatti e tra i primi provvedimenti attesi la decisione sul futuro della prigione di Guantanamo. Per il federalismo fiscale il debutto al Senato. Il federalismo non c'è se non è fiscale, incalza Calderoli. Europa 7, senza frequenze, lo Stato ora deve pagare 1 milione di euro di risarcimento, il Consiglio di Stato ha chiuso il caso. I presidenti di Camera e Senato decisi a chiudere la commissione di vigilanza Rai, ultime ore per Villari. Nuovi sbarchi a Lampedusa e una vittima, il centro di accoglienza ormai è un centro di detenzione, accusa il sindaco dell'isola. Non nuoto più, ecco l'ultima di Lor Manadou, lascia la vasca per una pausa di riflessione, non ci sarà il mondiale di nuoto a luglio a Roma. Gerex Alargia, Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, è tutto per questa edizione, coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. E l'appuntamento, come sempre, per domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.